In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Ormai è una vera e propria mania collettiva, una psicosi, un'invasione, Masterchef, Hell's Kitchen, boss delle torte, prova del cuoco, cucine da incubo, poi chef stellati che parlano, Gordon Ramsay, Cracco, Barbieri e poi il mio preferito, Antonino Cannavacciuolo, insomma, cuochi che parlano di cucina in televisione a ogni ora del giorno e della notte. La cucina è una fonte inesauribile ormai, e tutto quello che gravita attorno alla cucina ha successo, e poi nascono quindi ristoranti dove bisogna prenotare mesi prima, libri di ricette che diventano best seller, format televisivi, gare gastronomiche che vengono seguite come fossero la notte degli Oscar. Insomma, se una volta si diceva dimmi cosa leggi o che musica ascolti e ti dirò chi sei, oggi a questo assioma si aggiunge la frase dimmi cosa mangi, dimmi come mangi e ti dirò chi sei. È cambiato tutto, il cuoco è diventato insomma un maître à penser, cioè è diventato uno importante, non è più semplicemente quello gigantesco col grembiulone che sta dietro in cucina, magari con in testa quel copricapo, il tocco bianco, la touche blanche che lo distingueva dai subalterni. Beh, oggi i cuochi sono diventati delle superstar, oggi si fa spettacolo di tutto, si ristrutturano case, si fa spettacolo con le malattie più strane, i format soprattutto americani ci hanno abituati a vedere qualsiasi cosa, l'arte della ristorazione però diventa parte della cultura. La cosiddetta cucina moderna nasce nel 1600 e lo sappiamo, insomma, parla francese. Ascoltate cosa scrive una grande esperta di storia e gastronomia antica, Francesca Sgorbati Bosi, che nel 2017 pubblica un libro molto gustoso, A tavola coi re. Durante il regno di Luigi XIV, il Re Sole, iniziò quell'evoluzione che portò la cucina francese ad essere la più famosa d'Europa, la cucina moderna. Si infransero regole vecchie di secoli, si cercò prima di tutto la soddisfazione del palato e si considerò il mangiar bene non solo una manifestazione della ricchezza e dello status sociale, ma un aspetto basilare del progresso e della cultura francese. Piano piano, i cuochi vennero considerati dei veri artisti, sostenendo che la cucina era un'arte non inferiore alle altre, se non addirittura la madre di tutte le arti, dato che il buon cibo era necessario sia al corpo che allo spirito. E poiché non c'è arte senza che esistano trattati che ne illustrino le fondamenta, le regole, le complessità e le bellezze, fiorì una folta messe di ricettari che illustrò la ricchezza e la varietà della cucina francese, codificò una precisa terminologia che da allora resterà sempre in francese e stabilì un corpus di regole e pratiche che fece assurgere la cucina a scienza. I più grandi competitor dei francesi siamo noi italiani, secondo me abbiamo la cucina migliore del mondo, però le basi della cucina moderna, delle ricette che sono diventate dei classici, le basi sono partite proprio dalla raffinatissima corte dei reali francesi nel 1600. Il nostro protagonista di oggi è proprio un uomo di quel periodo, un grandissimo, il più grande chef francese, ha fatto scuola lui, però ha vissuto sulla sua pelle intanto la storia travagliata del suo paese e poi la sua ansia di perfezionismo, insomma. Ha cucinato per i potenti della terra, ha dedicato la sua vita all'arte dell'accoglienza, perché la cucina, il cibo è accoglienza, e il nostro protagonista di oggi è tutto questo, François Vatel, il cuoco che cucinò per il Re Sole. with her. Non si sa molto di lui. Era nato il 17 gennaio 1631 a Parigi o forse a Tournai in Belgio. La famiglia era originaria della Svizzera, il suo vero nome era Fritz Karl Vattel. Il padre era un contadino, per il resto della sua infanzia, della sua fanciullezza non ci sono grandi informazioni. Non si sa neanche bene come si è approdato all'arte della cucina. Apprendista in una pasticceria, in una gastronomia, a 22 anni, nel 1653, entra nel castello di Vaux-le-Vicomte, siamo a Melun, nel nord della Francia, ci entra veramente dalla porta di servizio, letteralmente è garzone di cucina. Questo castello, nel momento della nostra storia, è di proprietà del potente visconte e marchese Nicolas Fouquet, sovrintendente alle finanze del Regno di Francia, perché Luigi XIV era minorenne, è stato nominato dal cardinal Mazzareno, primo ministro reggente. E Vattel è un garzone bravissimo e talentuoso, e si dimostra subito abile, pieno di fantasia, lavoratore. Insomma, scala uno a uno tutti i gradini che lo portano a diventare maître de cuisine, cioè capo cuoco, però in realtà manager, perché è responsabile anche degli approvvigionamenti del castello, della organizzazione di feste e banchetti. Ascoltate la testimonianza di Alexandre de Vogue, attuale proprietario, bella vita, del castello di Vaux-le-Vicomte. Vattel è stato un esempio di professionalità, di efficacia. Era un grande lavoratore e si è guadagnato subito la fiducia del suo committente. Così Fouquet lo nomina suo organizzatore di eventi, attendente, responsabile dell'andamento del castello. Lui si occupa delle cucine, di stabilire i menù, ma poi anche della parte più ricreativa dei banchetti, gli spettacoli, i fuochi d'artificio, le musiche. Insomma, ha tantissime responsabilità. Non è mai stato solo lo chef. Il n'a jamais été chef. 17 agosto 1661, Nicolas Fouquet fa la festa, diciamo, di inaugurazione del castello, invita il re Sole, che ha 23 anni, la madre, la regina Anna d'Austria e tutta la corte. François Vattel è il responsabile di tutta l'organizzazione molto complessa di questo evento, è capo del protocollo, insomma organizza una festa sontuosa e in grande stile, 24 violoncelli che suonano la musica di Lully, che è il sovrintendente musicale del re, c'è nel meraviglioso parco del castello la compagnia teatrale che mette in scena la commedia comica di Molière I Cattivi, che viene composta per l'occasione. Quindi insomma immaginate il dispiego di forze, e poi c'è lo spettacolo culinario, 80 tavoli apparecchiati con stoviglie e posate d'oro, 30 diversi buffet con 5 portate ciascuno, fagiani, quaglie, pernici a profusione, non al caso poi la malattia dei ricchi era la gotta, perché a furia di mangiare carne e carne si finisce così. François Vattel conosce molto bene il pensiero dell'epoca in fatto di menù. Esisteva una precisa gerarchia degli alimenti ordinati lungo una scala che scendeva verso il basso, poiché Dio aveva creato il mondo partendo dal cielo e scendendo verso la terra. Quindi, più lontano era un alimento dalla terra, più era nobile e salubre. Le verdure, soprattutto le radici, carote e rape, ma anche i bulbi, aglio, cipolla, patate, che crescono addirittura sottoterra, erano considerate inferiori alle verdure a foglia, tipo spinaci o insalate, e queste erano a loro volta inferiori agli arbusti da frutto. La carne era considerata l'alimento per eccellenza, ma esisteva anche qui una gerarchia. Maiale e ovini erano al gradino più basso, poi a salire manzo, vitello, oca, anatra, pollo, e poi finalmente c'era la cacciagione di penna, in quanto gli uccelli, volando in cielo, erano considerati creature più vicine a Dio e quindi alimenti più nobili. E la festa, organizzata da Vattel in onore del re, è straordinaria. perfezione assoluta, varietà, gusto delle portate, eleganza, raffinatezza nella disposizione delle tavole e anche dei piatti, l'impiattamento, come dicono oggi i cuochi. E poi spettacoli pirotecnici, musica, balletti per allietare gli ospiti, niente è lasciato al caso, e l'immensa ricchezza del padrone di casa viene, si capisce da ogni dettaglio. Lui ha dato carta bianca a Vatel, non gli ha dato un budget, Vatel è veramente esagerato nel bene. Lui è un perfezionista, pretende il massimo da se stesso e dai suoi dipendenti, e insomma un trionfo. Il banchetto è terminato, sono finiti i fuochi d'artificio e è stata preparata con cura tutta la parte per il pernottamento del re. Immaginate stanze più belle, eccetera, eccetera. Bene, e il re Sole invece decide improvvisamente di tornare alla sua residenza di Fontainebleau con la madre e con tutto il suo seguito. Insomma, non accetta l'ospitalità per la notte. E lì le cose non succedevano per caso, è un segnale ben preciso. Insomma, il re se ne va, è anche stizzito. E cosa è successo? La festa è stata stupenda, è stata perfetta, bene. È proprio questo che ha fatto inviperire il re, perché insomma il re è prosciugato un po' nelle sue finanze, intanto perché c'è stata la guerra dei 30 anni e poi lui sta affrontando la costruzione di Versailles, quindi insomma gli operai costano, e Luigi XIV in pratica insomma si è infastidito dall'opulenza che gli ha dimostrato Fouquet, e ha pensato che in quel momento neanche lui avrebbe potuto fare una festa del genere, il re. E insomma Fouquet ha fatto tutto in onore del re, ma non ha pensato che esagerando avrebbe reso il re geloso, e fare arrabbiare un re in quegli anni insomma non è una buona mossa. Il 5 settembre 1661 Luigi XIV ordina al suo uomo più fidato, il comandante della guardia dei moschettieri, che si chiama Charles de Bas di Castelmort d'Artagnan, e sì, vabbè, d'Artagnan, quello che tutti noi conosciamo, insomma ordina addirittura di arrestare Fouquet, che viene processato per peculato e lesa maestà. Pensate, uno fa una festa dal massimo e proprio per quello viene processato, esiliato al carcere a vita nella fortezza di Pinerolo vicino a Torino, la terribile prigione dove il Re Sole mandava tutti i suoi nemici, compreso il misterioso personaggio, la Maschera di Ferro. Sapevate che esisteva un uomo così rassomigliante? È mio fratello. Fratello? Il mio gemello. Il mio sangue. Luigi, ti prego. Avete partecipato anche voi, madre? È tuo fratello. Io vi amo entrambi. E il vostro amore non ha significato nulla per nessuno dei due. Per me ha significato molto. Maestà, ascoltatemi. Ascoltatemi. Mai una volta vi ho chiesto qualcosa per me. Ora vi chiedo di risparmiare la vita di quest'uomo, questo prigioniero, vostro fratello. Non avete il diritto di chiedermelo! Voi vi schierate con i traditori. Con lui! Soprattutto mio fratello, che ha fatto questo a me! E voi che avete fatto a quest'uomo? D'Artagnan, voi troverete Porthos, Athos e Aramis e mi porterete le loro teste, o io avrò la vostra. Quanto a te, caro fratello, te ne torni alla prigione e alla maschera che odi. Luigi, no! A forza di portarla ti piacerà! Questa era una scena tratta dal film La Maschera di Ferro del 98 con DiCaprio, che fa due ruoli, il Re Sole e il fratello gemello Filippo, tenuto appunto nascosto, imprigionato nella fortezza di Pinerolo. È una ricostruzione di fantasia ispirata al romanzo di Dumas, ma in realtà Filippo era il fratello minore del re e non era mai stato in prigione. Non ci sono prove su chi veramente fosse la Maschera di Ferro, su chi ci si celasse dietro alla Maschera di Ferro, però è provato che sia esistito un prigioniero molto sfortunato. Insomma, molti sospettarono che la Maschera di Ferro fosse proprio il povero Nicolas Fouquet. Insomma, in tutto questo François Vatel sta vivendo gli eventi tragici del suo datore di lavoro, li sta vivendo con apprensione, ha paura di essere arrestato anche lui con l'accusa di aver fatto una festa troppo bella nella quale si mangiava troppo bene. Insomma, è preso dal panico, fugge in Inghilterra. Seeking pleasure, seeking fame. Vatel non sa che il Re Sole vuole assumere tutta la servitù di Fouquet per la sua residenza di Versailles. Insomma, rimane nascosto in Inghilterra. Poi incontra un certo Jeanneret de Gouvril, che è il segretario dell'abate Louis de Rochefoucauld. Questo Gouvril gli dice: guarda che è meglio che tu torni in Francia, perché nessuno vuole arrestarti. Anzi, il re ti sta cercando perché ti vuole al suo servizio. E il re era rimasto incantato dal genio di Vatel. E così Vatel torna a casa, siamo nel 1663. Nel frattempo Luigi XIV aveva seguito, diciamo, il piano B, aveva preso un altro maître de cuisine. Insomma, lui va da Luigi II di Borbone, principe di Condé, cugino del Re Sole. È un valoroso condottiero questo principe, le sue imprese belliche gli hanno valso il titolo di Gran Condé. Insomma, è considerato l'Alessandro Magno di Francia, e quindi essere il suo maître de cuisine è un titolo prestigiosissimo, quasi come quello che lavora al servizio del re. La dimora di Condé è un castello, il castello di Chantilly, 50 km da Parigi, nella Piccardia, che è una bellissima regione della Francia settentrionale. Condé dedica alla sua prestigiosa dimora tutte le sue attenzioni, insomma le sue ricchezze vanno tutte lì. La dimora diventa qualcosa di straordinario, lì riceve peraltro scrittori come La Fontaine, Racine, Molière, che lì comporrà il suo famoso Tartufo, e insomma tutte queste personalità vengono accolte e l'ospitalità è squisita. E dietro a tutto questo c'è lui, c'è François Vatel, maggiordomo responsabile dell'intero castello di Chantilly, super manager. Lui avrà modo lì di esprimere tutta la magnificenza della sua arte, creerà delle ricette rimaste immortali. Il falco. E il gabbiano. E il nostro protagonista di oggi è François Vatel, un grandissimo cuoco, pasticciere, maestro cerimoniere. È difficile parlare del suo ruolo, perché qui parliamo di un manager con una creatività incredibile in cucina. È stato talmente bravo che ha fatto cadere in disgrazia il marchese e visconte Nicolas Fouquet. Perché? Perché Fouquet aveva organizzato una sontuosissima festa per Luigi XIV, il Re Sole, gli era venuta talmente bene che il re si era arrabbiato e lo aveva invidiato, aveva fatto sfigurare il re per essere stato troppo bravo senza essere a servizio del re. Insomma, Vatel, stimato e conosciuto in tutta la Francia per la sua arte sopraffina nell'accoglienza, nell'organizzazione, non rimane senza lavoro. Fouquet è in galera a Pinerolo, lui invece viene assunto alla corte di Luigi II di Borbone, cugino del Re Sole. La dimora di questo nobile è lo splendido castello di Chantilly, 50 km da Parigi. E qui Vatel dà il meglio di sé, esprime tutta la sua maestria, dedizione al lavoro totale, dorme 2 o 3 ore per notte, dedica tutte le sue energie a quell'arte complessa che è la cucina, comincia a sperimentare, a provare, a modificare, a creare le basi di ricette che ancora oggi vengono seguite secondo i suoi insegnamenti. E per esempio siamo a Chantilly, ve l'ho detto, bene, lui inventa una crema a base di panna montata, la rivisita a modo suo, e siamo a Chantilly, come si chiama? Crema Chantilly, non so se mi spiego. La crema Chantilly è spesso confusa in Italia con la crema diplomatica, mentre in Francia la riconoscono al primo sguardo. È una preparazione di base molto usata in pasticceria, perfetta per guarnire pasticcini, millefoglie o una cascata di beignet come i profiterol, oppure torte maestose come la Saint-Honoré. Per prepararla occorre una panna di latte molto fresca che va versata in una ciotola a bordo alto precedentemente tenuta in freezer. La panna liquida va profumata con l'aggiunta di bacche di vaniglia e sbattuta con una frusta fino a raggiungere una consistenza semi-montata. Dopodiché si aggiunge lo zucchero vanigliato setacciato. Si prosegue poi a montare il tutto fino a raggiungere un composto molto consistente. La vostra crema Chantilly, con l'identica antica ricetta che veniva preparata nel castello di Condé, è pronta per guarnire le vostre preparazioni dolciarie. Però, l'abbiamo detto, lui non è solo un cuoco, lui crea un diverso modo di presentare le vivande, lui inventa uno stile di offerta del menù sconosciuto all'epoca, è l'antesignano dei moderni buffet, che rivela anche un attento studio da parte sua, diciamo, dei valori nutrizionali dei diversi cibi. La gente lì in quegli anni tendeva solo a buffarsi. Ascoltate cosa dice Dominique Michel, storica della cucina francese. Esistevano diverse portate che venivano servite una alla volta. La prima erano le zuppe, la seconda gli antipasti, la terza le pietanze principali, cioè le carni o i pesci arrosto, la quarta i contorni e la quinta i dolci. Vatel cambia questo sistema consolidato, crea un'innovazione per la tavola di Condé e per quella di Luigi XIV, cioè sistema tutto insieme, il caldo e il freddo, il dolce e il salato. Questo permette al commensale di poter scegliere cosa mangiare, non solo in base al gusto o all'appetito, ma anche in base alla propria indole. Ad esempio, chi era sanguigno doveva evitare di mangiare le cose troppo calde. E come tutti i grandi, Vatel ha una visione globale del suo lavoro ed è molto moderno, precorre i tempi, non ha ancora tutte le informazioni che la scienza dell'alimentazione offrirà in futuro ai suoi colleghi, però capisce cosa può essere più giusto abbinare, cosa evitare in caso di particolari problemi di salute, quali cibi accostare per raggiungere la perfezione nelle sue presentazioni. Certo, non si doveva ancora scontrare con questo mondo di celiaci, di vegani, di vegetariani, di persone terrorizzate, di gente che non vuole ingrassare, però stiamo parlando del numero uno di allora e forse di sempre. Ecco, e ora un fiore vero, prendete quello blu, armonia e contrasto, la bellezza nasce sempre da queste due cose. Vedete, Colin? Pochi oggetti sono generalmente belli o brutti in sé. Capire questo significa cominciare ad essere un artista. Ah. Ecco. E questa era una scena tratta dal film Vatel del 2000 di Roland Joffé, con Vatel che viene interpretato dall'immenso Gérard Depardieu, immenso in tutti i sensi ormai. Va detto peraltro che in quegli anni nascono degli abbinamenti che diventeranno dei classici che noi mangiamo abitualmente, per esempio prosciutto e melone, prosciutto e fichi. Era considerato un pasto eccellente perché il prosciutto crudo era molto salato, quindi portatore del più potente conservante del tempo, e quindi impediva al melone di decomporsi troppo velocemente nello stomaco e quindi di causare quel senso di gonfiore. Oppure, non so, le pesche con il vino, era un dessert che era molto in voga in quegli anni. Vatel era un promulgatore delle pesche con il vino, e l'abbinamento nasceva da un'opinione che oggi è superata ma molto fantasiosa, cioè se si pensava che gli alimenti cotti fossero più digeribili, anche quelli cotti con lardo e con burro fritto. Gli alimenti crudi erano ritenuti più ostici per il nostro stomaco, quindi la frutta cruda andava consumata col vino, che in qualche modo, secondo il convincimento dell'epoca, l'avrebbe cotta direttamente nello stomaco. François Vatel, però, l'abbiamo già detto, non si occupa solo di cucina, si occupa di organizzare eventi, e dopo la sontuosa inaugurazione del castello di Vaux-le-Vicomte, quella che costò il carcere al suo datore di lavoro, Vatel si trova nuovamente a dover affrontare un evento molto delicato, già perché il principe di Condé ha, come dire, uno scheletro nell'armadio. Lui nel 1652 aveva partecipato al movimento aumento della fronda, non tanto per contrastare il cugino Luigi XIV, al quale era molto attaccato, ma per togliere il potere a un altro tremendo di quegli anni, il cardinale Mazzarino. Insomma, lui era nemico di Mazzarino e quindi in qualche modo aveva anche attaccato il re. Sono passati diversi anni, il colpo di stato era fallito, Condé vuole riconciliarsi in maniera definitiva con suo cugino il re Sole, anche perché abbiamo notato quanto sia pericoloso essere nemici di un re in quei tempi. Una riconciliazione che deve avvenire durante un festeggiamento grandioso che va organizzato a Chantilly e che quindi grava tutto sulle spalle del controller generale de la Bouche, cioè del super manager, del grande e ineguagliabile François Vatel. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Arriviamo al 23 aprile 1671. Dopo anni d'attesa, lavori di restauro, il castello di Condé è pronto e grazie alla festa da organizzare lì nel castello, il padrone di casa, appunto Condé, vuole riconquistare i favori del cugino, il terribile Re Sole. Lui ha questo problemino che aveva partecipato alla rivolta della Fronda, adesso bisogna mettere tutto, buttare tutto in caccia, tarallucci e vino, appunto. Ma che tarallucci e che vino, perché Condé deve farsi perdonare in vita il Re Sole e tutta la sua corte a Chantilly. Stiamo parlando di un evento straordinario, i festeggiamenti in onore del riavvicinamento tra i due cugini, e devono durare 3 giorni a partire da quel giovedì 23 aprile. Gli ospiti arrivano in pompa magna, stuoli di servitori, dame di compagnia, valletti, cocchieri, carrozze piene di bagagli. La prima giornata viene organizzata una battuta di caccia nei boschi circostanti che fornirà selvaggina e volatili per la cena. Immagino ci saranno stati dei volatili pagati per suicidarsi addosso ai potenti per evitare, insomma, insoddisfazioni. Comunque la cena è già pronta, sarà preparata dallo staff organizzato da Vatel. La responsabilità di Vatel ovviamente è altissima. Ascoltate cosa racconta lo storico Jean-Christian Petitfils. Il problema è che lui era il controllore di tutto. Non poté dormire per 12 notti. Doveva tenere le fila di tutta l'organizzazione, guardare che tutto funzionasse bene, verificare, controllare, comandare, velocizzare i ritardatari e soprattutto non poteva sbagliare. E già, non si può sbagliare. Il destino della casata dei Condé dipende in gran parte dalla buona riuscita di questi festeggiamenti. Il principe lo sa e ripone tutte le sue speranze nel geniale Vatel. Vatel ha 3 banchetti principali da preparare: la cena del giovedì a base di cacciagione frutto della battuta organizzata per gli ospiti, la cena del venerdì, pasto di magro perché siamo in quaresima, quindi tutto a base di pesce, e poi il banchetto finale del sabato a base di carni miste arrostite. Praticamente ha già tutto al castello. Nei 15 giorni precedenti ha organizzato gli approvvigionamenti degni di un intero esercito. L'unico alimento che per forza deve arrivare fresco è il pesce, pesce che verrà pescato nella notte tra giovedì e il venerdì, spedito al castello di Chantilly dal porto di Boulogne, 200 km, e poi va cucinato. Vatel però è pronto a ogni evento, ha organizzato tutto alla perfezione. Ha già inviato dal mercoledì persone di sua fiducia per prenotare il pescato migliore: sogliole, rombi, pescigato, branzini, orate, e poi frutti di mare, cozze, vongole, datteri. Tutto quello che c'è di meglio verrà messo da parte per lui, che ha creato naturalmente una rete di connessioni con i mercanti di pesce più affidabili. La mattina del venerdì, fin dalle prime luci dell'alba, Vatel e la sua squadra di cuochi stanno attendendo l'arrivo del carico. Però c'è un ritardo: nella mattinata sono arrivate solo 2 ceste di molluschi. Nel primo pomeriggio Vatel comincia a disperarsi, tra poche ore ci sarà la cena cena. Se il pesce non arriva subito, non si farà tempo a cucinarlo. Il pesce non arriva e ormai i calcoli dimostrano che la portata principale della cena, di fatto, non ci sarà. Vatel si rivolge al suo collaboratore e gli dice: non posso sopravvivere a questo affronto. Il mio onore e la mia reputazione sono perduti. Ascoltate cosa scrive in una lettera che invia a una sua amica Madame de Sévigné, nota scrittrice dell'epoca, che rappresenta i festeggiamenti. Ti dico cosa abbiamo appena appreso. Un fatto così tragico che fatico a capire cosa ti sto scrivendo. François Vatel, il grande Vatel, maestro di cerimonie prima di Monsieur Fouquet e ora del principe Condé, un uomo le cui capacità non hanno uguali, vedendo che il pesce non è arrivato, non ha potuto sopportare questo disguido per lui drammatico, è salito in camera sua e si è lanciato su di una spada appesa alla parete, suicidandosi. La confusione è grande, credimi, è una cosa spiacevolissima. Il colpo d'ala di Vatel è terribile. Non è stato in grado di rispondere alle aspettative che c'erano sul suo lavoro e allora si getta su una spada che ha appeso in camera sua. Insomma, non riesce a affrontare quello che lui considera un tragico fallimento, il suo estremo perfezionismo non conosce compromessi. Peraltro, pochi minuti dopo la scoperta del suo gesto estremo, il pesce arriva al castello. Gli invitati rinunciano a quel banchetto a base di pesce che aveva causato questo dramma. Naturalmente però i festeggiamenti continuano, tutto quello che Vatel aveva fatto in termini di preparazione del lavoro sarà utile, perché il re Sole si riappacificherà con suo cugino. François Vatel muore vittima del suo perfezionismo e delle aspettative che il mondo aveva su di lui. Muore suicida a 40 anni. All'epoca togliersi la vita era un peccato mortale. Per lo Stato francese i corpi dei suicidi dovevano essere gettati nella spazzatura, ma Vatel viene sepolto lo stesso in un cimitero. Gli viene riservato un funerale religioso su intercessione dello stesso Re Sole. La sua fedeltà, la sua dedizione totale tale all'arte sopraffina della cucina e gli daranno la possibilità di essere ricordato negli anni e di essere raccontato da me. Buon appetito a tutti, ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simone Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.